Siano lodati sempre Gesù e Maria. Questa sera, se il Signore ci aiuta, apriamo il capitolo, e vi avevo accennato un po' di tempo fa, dei libri dei Maccabei, che sono gli ultimi tra i libri storici dell'Antico Testamento. E poi vedremo che raccontano e affrontano dei temi che per noi oggi contemporanei del XX secolo sono abbastanza, oserei dire, quasi tabù, quantomeno il primo, che è quello della guerra santa, più il secondo, che è quello del martirio, che diciamo che non è tabù, perché purtroppo di fatto i martiri cristiani sono ancora tanti, quindi per forza di cose questo secondo aspetto è sotto i nostri occhi. Ecco, io c'è l'immagine, penso che riconosciate, dell'anfiteatro Flavio, che è stata sede e teatro di molti morti ammazzati cristiani, insomma. Ecco, diciamo che gli imperatori romani non hanno avuto nulla da invidiare a un grande persecutore degli ebrei che vedremo protagonista dei libri dei Maccabei, che è soprattutto Antioco IV Epifane. Allora, oggi vedremo il primo libro dei Maccabei. Tenete presente che anche il secondo libro dei Maccabei abbraccia il periodo storico, diciamo, fondamentalmente è una ripetizione del primo, con la focalizzazione di alcuni aspetti particolari, cioè si inquadra storicamente nei primi 15 anni, adesso vedremo. E diciamo che il periodo di Maccabei va da circa il 175, che è l'anno in cui è asceso al trono Antioco Epifane, fino alla fine del regno del nipote di Mattatia, no, del figlio del terzo dei figli di Mattatia, adesso vedremo, che è Simone, che sta intorno al 134, quindi abbraccia circa una quarantina d'anni. Siamo abbastanza vicini all'età di Cristo, e vedremo la prossima volta. A Dio piace, la prossima volta, che vi dico subito così, che non sarà martedì prossimo, perché martedì prossimo abbiamo le 40 ore, quindi le 40 ore, avremo le 40 ore, e poi la sera un incontro catechetico ad hoc per quelle 40 ore, quindi ci rivedremo tra 15 giorni. Quindi riprenderà alcuni episodi successi in questo arco di tempo, narrando alcune storie esemplari di martirio, soprattutto le storie splendide del martirio del sacerdote Eleazzaro, vedremo sempre la prossima volta, e dei 7 santi figli di una povera donna che si è vista morire e marire ammazzati sotto i propri occhi, 7 figli, e poi è morta ammazzata pure lei, insomma, sempre sotto la feroce persecuzione di questo Antioco Epifane. Allora, collocazione storica, adesso poi lo vedremo anche nel primo capitolo, il primo libro dei Maccabei. Siamo nell'età ellenistica, vi ricordate gli inizi dell'anno, il percorso storico della storia dell'Antico Testamento, cioè dopo il regno di Israele ci sono stati varie fasi, prima gli Assiri hanno distrutto il regno del nord, hanno dominato Israele, poi i Babilonesi hanno distrutto il Tempio di Gerusalemme e hanno deportato gli ebrei. Poi sono venuti i Persiani, l'abbiamo visto la volta scorsa col libro di Ester. Dopo i Persiani è venuto Alessandro Magno. Alessandro Magno, come sapete, ha conquistato praticamente tutto l'orbe orientale conosciuto. Era tremendo, insomma. Questi Seleucidi sono i suoi discendenti diretti, perché dopo i figli sono spartiti il regno e hanno creato alcune dinastie, ognuna delle quali c'è una zona di influenza nel medio, in quello che noi oggi chiamiamo il Medio Oriente, che era tutto quanto greco, prima che poi arrivassero i romani, che hanno fatto la piazza pulita di tutto. E questo è uno dei successori appartenente alla dinastia dei Seleucidi. Questo, come tutti quanti i megalomani, il discorso storico è questo qui, che a un certo punto si sono trovati in difficoltà, perché per una serie di campagne si sono trovati a dover versare dei soldi a Roma, e non sapeva dove andarli a trovare. Questo si è messo in testa di rastrellare tutte le province affidate a lui per trovare i soldi necessari per tenere buoni i romani. E vedremo che Cristo ha profanato il Tempio di Gerusalemme, si è venduto tutti quanti i vasi sacri, ha fatto di tutto e di più contro la religione giudaica. Adesso vedremo subito poi nel capitolo primo. Quindi il contesto è la dominazione straniera, però con l'aggravante che Antioco Epifane si era messo in testa di paganizzare Israele. Questo era il suo programma, quindi la profanazione del Tempio, che fu profanato e fu dedicato a una divinità pagana di fatto, e la paganizzazione dei costumi giudei. Quindi con l'inserimento di istituzioni tipo il ginnasio, tipo la palestra, tipiche dei greci, dentro il contesto culturale giudaico. Come sempre accade in queste cose, che è successo che la maggioranza, per paura, si è adeguata, quindi ha chinato la testa di fronte al dominatore. Una minoranza, e lo vedremo, ha detto: questo non può essere, questo è contro la legge di Dio, quindi dovremo scendere in campo e combattere. Quindi questo è il contesto in cui si situano i libri dei Maccabei. Ora, dinanzi a questo tentativo, i cosiddetti Maccabei, che hanno come capostipite, vedremo, Mattatia, con i suoi tre figli, organizzano una vera e propria rivolta. Rivolta cruenta, quindi hanno fatto l'ira di Dio e gli hanno fatto vedere, come diciamo oggi, moderni sorci verdi ai greci, perché sia Mattatia sia soprattutto uno dei figli, Giuda Maccabeo, uno dei più grandi eroi della storia della salvezza dell'Antico Testamento, sono stati dei grandissimi condottieri militari che hanno messo in ginocchio, letteralmente in ginocchio, questi che erano numericamente molto più forti, diciamo così, sulla carta degli ebrei. Quindi il contesto è proprio quello della guerra santa, se sentiremo pronunziare queste parole, quindi sarete un pochino sconvolti. Quindi quando i musulmani oggi dicono facciamo la guerra santa, non se lo sono inventato loro questo termine si trova nella Bibbia, nell'Antico Testamento, e in questo contesto. Voi sapete che questo argomento non spinoso di più. Quindi esiste una guerra santa, appunto, perché dopo dobbiamo fare sempre le attualizzazioni. Si può combattere in nome di Dio, si può impugnare la spada in nome di Dio? Sì o no? Come, dove, quando e perché, eventualmente con la risposta sia positiva. Quindi capite che sono argomenti di scottante attualità. Perché nel nostro tempo sapete benissimo che da alcune organizzazioni la guerra è concepita come il male assoluto, la pena di morte è concepita come il male assoluto. Sono vere queste cose? Il libro dei Maccabei dà alcune risposte che bisogna contestualizzare, perché stiamo ancora nell'Antico Testamento, però sono comunque alcune risposte. Quindi i Maccabei partono da Mattatia, morto circa nel 160 a.C., e poi i suoi tre figli, prima Simone, poi il grande Giuda e poi Gionata. Quindi questi sono i condottieri giudei che hanno guidato la rivolta armata contro il dominio dei greci, dei discendenti di Alessandro Magno. Ora, a questo punto è bene che cominciamo la lettura, perché il capitolo primo mostra proprio l'introduzione degli usi pagani e il saccheggio del Tempio da parte di Antioco IV Epifane, nonché la diffusione dei culti pagani. Questi libri sono, diciamo, da un punto di vista di confessione, di una facilità estrema, perché non sono come libri strani della Bibbia, che poi qualcosa abbiamo visto e poi lo rivedremo, che uno deve capire, deve interpretare. Sono narrazioni storiche, però chiaramente dentro gli eventi che accadono, vi ricordo le cose dette all'inizio dell'anno, bisogna vederci la mano di Dio. Cioè, quando la Bibbia racconta dei fatti storici, non li racconta come li facciamo noi, cioè non è una cronistoria come facevano gli analisti romani, tipo Tacito, che ti fa la cronaca di quello che è successo. Questa è storia sacra, quindi dietro tutto quanto questo succedersi di fatti umani, fondamentalmente in questi libri militari, c'è la mano di Dio. Bisogna andarla a trovare e a comprendere quindi che cosa, qual è il messaggio che Dio dà attraverso questi eventi. Quindi il primo capitolo, adesso lo andiamo a vedere subito, che è un po' la contestualizzazione storica di tutto quanto il discorso. Queste cose avvennero dopo che Alessandro il Macedone è Alessandro Magno. Penso che sappiate che Alessandro Magno è morto nel 323 avanti Cristo, uno dei più grandi condottieri di tutta la storia, per questo che si chiama Magno, e che aveva come precettore niente di meno, non so se lo sapete, che il grande filosofo Aristotele, quindi il grande cavallo bianco di Alessandro Magno, che si chiamava Bucefalo, passato alla storia. Peccato che non ce l'ho pure io, va bene. Figlio di Filippo, uscito dalla regione dei Chittim, sconfisse Dario, re dei Persiani, l'abbiamo visto la volta scorsa, e dei Medi, e regnò al suo posto cominciando dalla Grecia. Egli intraprese molte guerre, si impadronì di fortezze e uccise re della terra. Arrivò fino ai confini della terra e raccolse le spoglie di molti popoli. La terra mutolì davanti a lui, ma egli si esaltò e il suo cuore montò in superbia. Radunò forze ingenti e conquistò regioni, popoli e principi che divennero suoi tributari. Dopo questo cadde ammalato e comprese che stava per morire. Morto giovanissimo, sapete, morto a 33 anni, Alessandro Magno. Allora chiamò i suoi ufficiali più illustri, che erano stati educati con lui fin dalla giovinezza, e divise tra loro il suo regno mentre era ancora vivo. Alessandro dunque aveva regnato 12 anni quando morì. I suoi ufficiali assunsero il potere, ognuno nella sua regione. Dopo la sua morte cinsero tutti il diadema e dopo di loro i loro figli per molti anni, moltiplicando i mali sulla terra. Uscì da loro una radice perversa, Antioco Epifane, figlio del re Antioco, che era stato ostaggio a Roma e cominciò a regnare nell'anno 137 del regno dei Greci. In quei giorni uscirono da Israele uomini scellerati che persuasero molti dicendo: andiamo e facciamo alleanza con le nazioni che ci stanno attorno, perché da quando ci siamo separati da loro ci sono capitati molti mali. State attenti a leggere la storia sacra. Politica del compromesso. Che facciamo? Sono arrivati i guai, che cosa facciamo? Scendiamo a patti o no? Parve buono ai loro occhi questo ragionamento, quindi alcuni del popolo presero l'iniziativa e andarono dal re, che diede loro facoltà di introdurre le istituzioni delle nazioni. Costruirono un ginnasio a Gerusalemme, secondo le usanze delle nazioni, cancellarono i segni della circoncisione e si allontanarono dalla Santa Alleanza. Si unirono alle nazioni e si vendettero per fare il male. Quando il regno fu consolidato, Antioco volle conquistare l'Egitto per regnare sui due regni. Entrò in Egitto con un esercito imponente, con carri ed elefanti, con la cavalleria e una grande flotta, e venne a battaglia con Tolomeo, il famoso Tolomeo, re d'Egitto. Tolomeo fu travolto davanti a lui e dovette fuggire, e molti caddero colpiti a morte. Così espugnò le città fortificate dell'Egitto e fece bottino della terra d'Egitto. Antioco ritornò dopo aver sconfitto l'Egitto nell'anno 143. Mosse contro Israele, salì a Gerusalemme con un grande esercito. Entrò con arroganza nel santuario. Sentite, ne asportò l'altare d'oro e il candelabro di lumi con tutti i suoi arredi. La tavola dell'offerta e i vasi per le libagioni, le coppe, gli incensieri d'oro, il velo, le corone, i fregi d'oro della facciata del tempio, lo spogliò di tutto. Si impadronì dell'argento e dell'oro ed ogni oggetto pregiato e asportò i tesori nascosti che riuscì a trovare. Poi, raccolta ogni cosa, fece ritorno nella sua terra dopo aver fatto una strage e aver parlato con grande arroganza. Allora vi fu lutto grande per gli israeliti in ogni loro regione. Gemettero i capi agli anziani, le vergini e i giovani persero vigore e la bellezza delle donne svanì. Ogni sposo levò il suo lamento e la sposa nel talamo fu in lutto. Tremò la terra per i suoi abitanti e tutta la casa di Giacobbe si vestì di vergogna. Due anni dopo il re mandò alle città di Giuda un sovrintendente tributi. Venne a Gerusalemme con un grande esercito e rivolse loro con perfidia parole di pace ed essi gli prestarono fede. Ma all'improvviso piombò sulla città, le inflisse colpi crudeli e mise a morte molta gente in Israele. Mise a sacco la città, la diede alle fiamme e distrusse le sue abitazioni e le mura di cinta. Trassero in schiavitù le donne e i bambini, si impossessarono del bestiame. Poi costruirono attorno alla città di Davide un muro grande e massiccio con torri solidissime, e divenne per loro una cittadella. Vi stabilirono una razza perversa, uomini scellerati che si fortificarono, vi collocarono armi e vettovagli, e radunato il bottino di Gerusalemme ve lo depositarono e divennero un grande tananello. Fu un insidio per il santuario e un avversario maligno per Israele in ogni momento. Versarono sangue innocente intorno al santuario e profanarono il luogo santo. Fuggirono gli abitanti di Gerusalemme a causa loro, e la città divenne abitazione di stranieri. Divenne straniera la sua gente e i suoi figli l'abbandonarono. Il suo santuario fu desolato come il deserto, le sue feste si mutarono in lutto, i suoi abitanti in vergogna, il suo onore in disprezzo. Pare la sua gloria fu il suo disonore e il suo splendore si cambiò in lutto. Poi il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli si adeguarono agli ordini del re, anche molti israeliti accettarono il suo culto, sacrificarono agli idoli e profanarono il sabato. Il re spedì ancora decreti per mezzo di messaggeri a Gerusalemme e alle città di Giuda, ordinando di seguire usanze straniere al loro paese e di far cessare nel tempio olocausti, sacrifici e libagioni, di profanare sabati e feste e di contaminare il santuario e quanto è sacro, di costruire altari, recinti sacri ed edicole e sacrificare carni suine e animali immonde, e di lasciare così che i propri figli non circoncisi si contaminassero con ogni impurità e profanazione, così da dimenticare la legge e mutare ogni istituzione, pena la morte a chiunque non avesse agito secondo gli ordini del re. In questi termini scrisse a tutto il regno, stabilì ispettori su tutto il popolo e intimò alle città di Giuda di sacrificare città per città. Molti del popolo si unirono a loro, quanti avevano abbandonato la legge, commisero il male nel paese e costrinsero Israele a nascondersi in ogni possibile rifugio. Nell'anno 145, il 15 di Crisleu, il re innalzò sull'altare un abominio di devastazione, cioè un altare per una divinità pagana. Questo è. Anche nelle vicine città di Giuda eressero altari e bruciarono incenso sulle porte delle case della città e nelle piazze. Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco. Marilyn Manson, versione antica. Ecco. Se presso qualcuno veniva trovato il libro dell'alleanza e se qualcuno obbediva alla legge, la sentenza del re lo condannava a morte. Trattavano con prepotenza con gli israeliti che ogni mese venivano scoperti nella città, e specialmente al 25 del mese, quando sacrificavano sull'ara che era sopra l'altare dei sacrifici. Mettevano a morte secondo gli ordini le donne che avevano fatto circoncidere i loro figli, con i bambini appesi al collo, e con i familiari e quelli che li avevano circoncisi. Tuttavia molti in Israele si fecero forza e animo a vicenda per non mangiare cibi impuri. Questo lo vedremo la prossima volta perché sta nel secondo libro dei Maccabei, e preferirono morire pur di non contaminarsi con quei cibi e non disonorare la Santa Alleanza, e per questo appunto morirono. Grandissima fu l'ira sopra Israele. Quindi questo è il contesto storico, come vedete, altamente drammatico, quindi fortissima persecuzione contro Israele. Nel capitolo secondo compare la rivolta e la guerra santa proclamata da Mattatia. Vi dico subito che questi capitoli sono la mia passione unica al mondo, insomma, quindi in quei giorni Mattatia, figlio di Giovanni, figlio di Simone, sacerdote della stirpe di Joarib, partì da Gerusalemme e venne a stabilirsi a Modin. Egli aveva 5 figli: Giovanni, chiamato anche Gaddi, Simone, chiamato Tassì, Giuda, chiamato Maccabeo, Eleazzaro chiamato Awaran, Jonata chiamato Affus. Viste le nazioni sacrileghe che si commettevano in Giuda e Gerusalemme, disse: «Oimè, perché mai sono nato per vedere lo strazio del mio popolo e lo strazio della città santa, e debbo starmene qui mentre essa è in balia dei nemici e il santuario è in mano agli stranieri? Il suo tempio è diventato come un uomo ignobile, gli arredi della sua gloria sono stati portati via come preda, sono stati trucidati i suoi bambini nelle piazze e i fanciulli dalla spada nemica. Quale popolo non ha invaso il suo regno e non si è impadronito delle sue spoglie? Ogni ornamento le è stato strappato, da padrona è diventata schiava. Ecco, le nostre cose sante, la nostra bellezza, la nostra gloria sono state devastate, le hanno profanate le nazioni. Perché vivere ancora?» Mattatia e i suoi figli si stracciarono le vesti, si vestirono di sacco e fecero grande lutto. Ora, i messaggeri del re, incaricati di costringere all'apostasia, vennero alla città di Modin per indurre a offrire sacrifici. Molti israeliti andarono con loro, invece Mattatia e i suoi figli si raccolsero in disparte. Guardate che questa stessa identica cosa è stata fatta nel secolo scorso dai comunisti, è tale e quale identica. In Russia sono state fatte queste testualissime e identiche cose. I messaggeri del re si rivolsero a Mattatia e gli dissero: tu sei un uomo autorevole, stimato e grande in questa città e sei sostenuto da figli e fratelli. Su, fatti avanti per primo e adempi il comando del re, come hanno fatto tutti i popoli, gli uomini di Giuda e quelli rimasti a Gerusalemme. Così tu e i tuoi figli passerete nel numero degli amici del re e tu e i tuoi figli avrete in premio oro, argento e doni in quantità. Ma Mattatia rispose a gran voce: anche se tutti i popoli che sono sotto il dominio del re lo ascoltassero e ognuno abbandonasse la religione dei propri padri e volessero tutti aderire alle sue richieste, io, i miei figli e i miei fratelli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri. Non sia mai che abbandoniamo la legge e le tradizioni, non ascolteremo gli ordini del re per deviare dalla nostra religione a destra o a sinistra. Quando ebbe finito di pronunciare queste parole, si avvicinò a un giudeo alla vista di tutti per sacrificare sull'altare di Modin, secondo il decreto del re. Ciò vedendo, Mattatia arse di zelo, fremettero le sue viscere, fu preso da una giusta collera. Fattosi avanti di corsa, lo uccise sull'altare. Uccise nel medesimo tempo il messaggero del re che costringeva a sacrificare, distrusse l'altare. Egli agiva per zelo verso la legge, come aveva fatto Fines con Zambri, figlio di Salom, episodio che non abbiamo letto, successo nel libro dell'Esodo. La voce di Mattatia tuonò nella città: chiunque ha zelo per la legge e vuol difendere l'alleanza, mi segua. Fuggì con i suoi figli tra i monti, abbandonando in città quanto possedevano. Allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero nel deserto per stabilirvisi con i loro figli, le loro mogli e il bestiame, perché si erano inaspriti i mali sopra di loro. Fu riferito agli uomini del re e alle milizie che stavano in Gerusalemme, nella città di Davide, che laggiù, in luoghi nascosti del deserto, si erano raccolti uomini che avevano infranto l'editto del re. Molti corsero a inseguirli, li raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e si prepararono a dare battaglia un giorno di sabato. Dicevano loro: ora basta, uscite, obbedite ai comandi del re e avrete salva la vita. Ma quelli risposero: non usciremo, né seguiremo gli ordini del re, profanando il giorno del sabato. Quelli si precipitarono all'assalto contro di loro, ma essi non risposero loro, né lanciarono pietre, né ostruirono i nascondigli, dichiarando: moriamo tutti nella nostra innocenza, ci sono testimoni il cielo e la terra che ci fate morire ingiustamente. Così quelli si lanciarono contro di loro in battaglia di sabato, ed essi morirono con le loro mogli, i figli, il bestiame, in numero di circa 1000 persone. Quando Mattatia e i suoi amici lo seppero, fecero grande pianto. Poi dissero tra loro: se faremo tutti come hanno fatto i nostri fratelli e non combatteremo contro i pagani per la nostra vita e le nostre leggi, in breve ci faranno sparire dalla terra. Presero in quel giorno stesso questa decisione: combatteremo contro chiunque venga a darci battaglia in giorno di sabato e non moriremo tutti come sono morti i nostri fratelli nei nascondigli. Allora si unì a loro il gruppo degli Assidei, uomini di grande valore in Israele, tutti impegnati a difendere la legge. Inoltre, quanti fuggivano davanti alle sventure si univano a loro e divenivano loro rinforzo. Così organizzarono un contingente di forze e percossero con ira i peccatori e gli uomini perversi con furore. I restanti fuggirono tra i pagani per salvarsi. Mattatia poi e i suoi amici andarono in giro a demolire gli altari e fecero circoncidere a forza tutti i bambini non circoncisi che trovarono nel territorio di Israele. Non diedero tregua ai superbi e l'impresa ebbe buona riuscita nelle romani. Difesero la legge dalla prepotenza dei popoli e dei re e non la diedero vinta ai peccatori. Intanto si avvicinava per Mattatia l'ora della morte e disse ai figli: ora dominano superbia e ingiustizia, è il tempo della distruzione e dell'ira rabbiosa. Ora figli, mostrate zelo per la legge e date la vostra vita per l'alleanza dei vostri padri. Ricordate le gesta compiute dai padri ai loro tempi e traete in gloria, insigne e nome eterno. Abramo non fu trovato forse fedele nella tentazione e ciò non gli fu accreditato a giustizia? Giuseppe, nell'ora dell'oppressione, osservò il precetto e divenne il signore dell'Egitto. Fines, nostro padre, per lo zelo dimostrato conseguì l'alleanza del sacerdozio perenne. Giosuè, obbedendo alla divina parola, divenne giudice in Israele. Caleb, testimoniando nell'assemblea, ebbe in sorte parte del nostro paese. Davide, per la sua pietà, ottenne il trono del regno per sempre. Elia, poiché aveva dimostrato zelo ardente per la legge, fu assunto in cielo. Anania, Azaria e Misaele, per la loro fede, furono salvati dalla fiamma. Daniele, nella sua innocenza, fu sottratto alle fauci dei leoni. Così di seguito considerate di generazione in generazione. Quanti hanno fiducia in lui non soccombono. Non abbiate paura delle parole del perverso, perché la sua gloria andrà a finire ai rifiuti e ai vermi. Oggi è esaltato, domani non si trova più, perché ritorna alla polvere e i suoi progetti falliscono. Figli, siate valorosi e forti nella legge, perché in essa sarete glorificati. Ecco qui il vostro fratello Simone, io so che è un uomo saggio, ascoltatelo sempre, egli sarà vostro padre. Giuda Maccabeo, forte guerriero dalla sua gioventù, sarà capo del vostro esercito e condurrà la battaglia contro i popoli. Radunate dunque intorno a voi quanti praticano la legge e vendicate il vostro popolo. Rendete il meritato castigo ai pagani e tenetevi all'ordinamento della legge. Poi li benedisse e si riunì ai suoi padri. Morì nell'anno 146 e fu sepolto nella tomba dei suoi padri a Modin. Tutto Israele fece grande pianto su di lui. Dovete sapere che uno dei complimenti più grandi che mi è stato fatto quando ero in seminario a Roma fu quando fu chiamato Mattatia. C'era un mio amico che sentì queste cose qua, venne vicino e mi disse Mattatia, con una faccia proprio, e dico grazie, perché è un grandissimo complimento. Allora, il capitolo che abbiamo letto, è un capitolo storico, pone però alla nostra attenzione diverse questioni. Quindi, non so se voi sapete, cioè questi argomenti qui sono stati oggetto e sono tuttora oggetto, per quanto riguarda l'applicazione cattolica, di vaste campagne screditanti e anticristiane fatte da certa propaganda. Ecco, tutti quanti sappiamo che uno dei più grandi delitti della Chiesa cattolica, per esempio, è stato fare le crociate. Come si sono permessi in nome di Dio a destra e a sinistra, ecco. Quindi c'è questo tema, la domanda che abbiamo fatto, e qui ci sono, diciamo, gli elementi di fatto per dare una risposta. Si può combattere in nome di Dio? Sì, come e quando? Ecco, perché la risposta è positiva, non è negativa, anche se a noi queste cose qui ci urtano oggi e ci fanno pensare chissà che o chissà che cosa. Bisogna contestualizzare la situazione di questi nostri fratelli Maccabei. Tenete presente queste indicazioni, che valgono, diciamo così, per i casi in cui vige il principio della cosiddetta guerra santa. Nel catechismo della Chiesa, anche se adesso nell'ultima versione sono stati un pochino passati in ombra, sono entrati poi nel cosiddetto principio della guerra tra virgolette giusta. E per focalizzare bene questi argomenti bisogna tenere presente alcuni principi generali, d'accordo? Che sono i seguenti. Numero 1, la guerra in quanto tale è un male e non è benedetta da Dio. Numero 1, questo bisogna tenerlo chiaro e presente. Perché questo? Perché evidentemente che ci siano uomini che si ammazzano e che si fanno guerra è cosa che, in quanto tale, che significa astrattamente parlando e in sé, quindi decontestualizzandola dalla situazione attuale che si vive in questo mondo, non è cosa buona né può essere cosa che in se stessa è benedetta da Dio. Quindi, numero 1. Poi però c'è il numero 2. Il numero 2 è questo, che il mondo in cui viviamo oggi non è il paradiso terrestre, ma è il mondo segnato dal peccato e dalle conseguenze della colpa d'origine. Hai sentito una cosa che dice Mattatia? Cosa hanno fatto i primi giudei? Si sono fatti ammazzare pur di non trasgredire il sabato. Mattatini a un certo punto dice: se facciamo tutti così, saremo completamente sterminati dalla faccia della terra, e lo sono sterminati dalla faccia della terra. Quindi che ci sono alcuni che scelgano, come dire, questa opzione e preferiscano offrire la vita piuttosto che difendersi con le armi è cosa lodevole, ma se tutti facessero così ci sarebbe lo sterminio dalla faccia della terra. Tenete presente, facciamo un altro esempio che è meno cruento, d'accordo? Cosa è meglio, cosa insegna la Chiesa? È più eccellente la vita non sposata o la vita sposata? È più eccellente la vita non sposata. Però immaginate che tutti facessero la vita non sposata, tempo poco tempo ci sarebbe l'estinzione della razza umana, d'accordo? Quindi questo che significa? Si devono sposare tutti? No! È bene che ci siano alcuni che scelgano il meglio, però se tutti facessero così, cosa dice Gesù riguardo questo argomento? In paradiso i figli del paradiso non prendono moglie né marito, perché in paradiso non serve mettere al mondo i figli, ma i figli di questo mondo lo prendono moglie e marito. Quindi state attenti, perché tante volte si perde il senno quando si dimentica che qui su questa terra non c'è più il paradiso terrestre, non c'è. Quindi non sempre è possibile perseguire il bene maggiore, ma delle volte bisogna optare per la tolleranza del male minore, perché siamo in questa situazione balorda che è la vita terrena. È chiaro che per quanto riguarda, dipende dalla volontà di Dio, Dio non avrebbe mai voluto che nessun uomo spargesse il sangue di un altro uomo. Ovvio. Ma adesso che facciamo? Perché se tu applichi questo principio alla lettera, allora i nostri cari poliziotti sono tutti quanti dei potenziali dannati, sono tutti quanti dei criminali. Perché se in alcune circostanze sono costretti ad usare la forza, se usare la forza fosse sempre comunque, e uccidere la vita fosse sempre comunque sbagliato, vanno tutti avanti all'inferno. Tutti. State attenti, il quinto comandamento, per esempio nel Catechismo di San Pio X, è formulato in questi termini, non è formulato nel termine di non uccidere. Perché quando uno dice non uccidere, deve farci qualche postilla. È formulato nei termini di non ammazzare. Perché un conto è uccidere, un conto è ammazzare. Perché ammazzare vuol dire uccidere senza una giusta causa. Perché purtroppo nella vita terrena, per come ci siamo ridotti, in alcune circostanze si può uccidere. E in altre circostanze è inevitabile. Quindi, e questo rimane così. Allora, tutto ciò premesso, capite? Cioè, se uno ti aggredisce, tu uccidi per legittima difesa. Sapete che c'è il codice penale? Codice penale, se uno uccide per legittima difesa, non è che ti dà le circostanze attenuanti, ma non ti condanna, cioè tu non hai commesso nessun reato. Nonostante che se commetti omicidio volontario, non mi ricordo il numero dell'articolo, ai tempi in cui studiavo diritto penale, sei condannato ad una reclusione non inferiore a 26 anni, non inferiore a 26 anni di galera per omicidio volontario in quanto tale. Ma per legittima difesa non è che c'è la circostanza attenuanti, non hai commesso nessun reato. E anche da un punto di vista morale, se tu uccidi per legittima difesa non hai commesso nessun peccato. Quindi gli stessi principi che valgono per i singoli si applicano nel grande. Allora, quando è che si può combattere e si può fare una guerra tra virgolette giusta? Non è una guerra giusta, perché la guerra non è mai giusta in quanto tale, ma è giusta dentro le circostanze balorde in cui ci troviamo a vivere. Cioè ci sono alcune condizioni che, verificandosi le quali, rendono inevitabile il ricorso alla guerra. E in quel caso la si può combattere, fermo restando che anche combattendo si devono rispettare i principi della dignità dell'uomo. Quindi non si può fare sciacallaggio, non si può essere crudeli, non si può infierire inutilmente, tutte quante le altre circostanze. Quali sono questi principi? Numero uno, un'ingiusta aggressione, quindi si può combattere non attaccando, ma per difesa di un bene necessario e di un bene che ti è stato tolto ingiustamente. Secondo, l'impossibilità di trovare una soluzione pacifica dell'ingiustizia al di fuori delle armi, cioè l'aver esperito, almeno provato ad esperire, i mezzi, diciamo così, diplomatici, oggi li chiamiamo comunque pacifici, di soluzione di un eventuale conflitto. Terzo, la proporzione, quindi la difesa deve essere proporzionata all'aggressione. Non ce ne sono altri. Quarto, questo vale per durante la guerra, in guerra non è comunque lecito calpestare la dignità dell'uomo, quindi non è che tu, cioè, se hai conquistato un posto, non è lecito fare il saccheggio, non è lecito fare lo sterminio, perché si sono tutti quanti arresi, fai prigionieri di guerra e li tratti da persone umane, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo, questi sono i meandri. In questo caso è ovvio che nel caso dei Maccabei queste cose c'erano, c'era stata una dominazione ingiusta, ma non solo una dominazione ingiusta, perché i romani per esempio erano molto più intelligenti, perché i romani quando dominavano una nazione, loro non toccavano nulla della cultura, infatti facevano fare tutto quello che volevi, cioè i tuoi dei te li tieni, c'è la tua cultura te la tieni, basta che la legge del diritto pubblico è quella di Roma, il diritto di vita e di morte spetta ai romani e chi comanda qui siamo noi e non sei tu, poi fai tutto quello che vuoi. I romani facevano sempre questo. Noi, vi ricordate anche il processo a Gesù Pilato, le vostre leggi, non me ne importa niente, vedetevela voi. Non sono affari miei, a me sono affari se qualcuno lede la legge di Roma, e per questo che poi sono inventati a Gesù di dire questo ha parlato contro Cesare, perché il dovere imputare di delitto di lesa maestà, perché altrimenti Pilato non l'avrebbe condannato. Perché lui non gli importava profeti, non profeti, la legge, il sabato, ha parlato contro il Tempio, non me ne importa niente. Però questi no, questi volevano paganizzare una nazione, avevano profanato un Tempio, e stavano costringendo gli ebrei all'apostasia, alla idolatria, a sacrificare gli dei pagani, e questo non si può tollerare. Ora, facciamo subito l'applicazione alle crociate, perché sono state fatte le crociate? Sapete perché? Perché i luoghi santi, che sono patrimonio, guardate che non sono, cioè, sono posti fondamentali, perché il cristianesimo non è una favola, non è un mito, né è una religione inventata dagli uomini. Il cristianesimo è una religione della storia, cioè che si poggia sul fatto che Gesù Cristo è venuto sulla terra, ha santificato alcuni luoghi, ci sono delle testimonianze evidenti legate ai luoghi di chi lui era e di ciò che aveva fatto. Se viene Pinco Pallino musulmano e mi ruba queste cose, me ne impedisce l'accesso, che faccio? Che cosa facciamo? Gli dico benvenuto, tanto io ho la fede, chi se ne importa del Santo Sepolcro? Questo è quello che dicono gli storiografi, cioè noi non dobbiamo essere però così stupidi. Allora, è vero, ve lo dico io, perché non c'è bisogno che lo dicano loro, che i soldati crociati, nel modo con cui hanno condotto alcune delle crociate, non tutte, hanno passato i limiti, perché hanno messo a ferro e fuoco il sacco di Costantinopoli, tante cose. È vero. Ma questo non tocca il principio che ci sia uno squadrone di soldati esauriti che si mettano a fare i matti senza il permesso e senza la benedizione di nessuno, non tocca il principio della legittimità di un intervento militare in quelle circostanze e a quelle condizioni. Non so se è chiara l'idea. Quando il Papa Giovanni Paolo II fece, condannò severamente per esempio la guerra in Iraq, quella non era una guerra giusta, quella lì, perché cioè, secondo i principi della dottrina cattolica, Perché anche se tu pensi, che poi non è stato mai provato, che devi andare a destituire un dittatore perché ha le armi, di cose che poi non è mai. Cioè, che ti ha fatto quello a te? Aspetta che spara una bomba atomica e poi lo vai a destituire. Ma non c'era ancora la condizione tale da giustificare un intervento armato, non c'era. Questo per farvi capire che dove. Ah, la Chiesa è contraria alla guerra. La Chiesa è contraria a quella guerra, non a ogni guerra per principio. Nel contesto chiaramente poi del 2011, la situazione, perché la Chiesa nel nuovo catechismo, come dire, ha abbastanza un po' marginalizzato questo discorso, perché oggi fare la guerra è pericoloso, cioè che ti metti a fastidio, cioè oggi schiacciano un pulsante, lanciano una bomba atomica e siamo tutti morti. Quindi, cioè, oggi bisogna essere molto cauti, cioè, non è che stiamo qui a combattere con la spada di Mattatia e col giavellotto e coi coltelli, cioè, oggi è un disastro che non finisce mai, insomma, ci sono stati dei momenti, sapete tutti quanti la storia, negli anni 60, negli anni 70, che hanno tutti quanti tremate, perché c'è stata sfiorata la guerra nucleare in più di qualche circostanza, e anche adesso, a quello che io so, ci stanno vari focolai, io conosco diversa gente in giro, preoccupanti. Noi adesso, in più di qualche parte del mondo, con qualche matto che ancora gira, se questi si mettono a fare una commedia che non finisce mai, c'è il pericolo che poco tempo, ti fanno delle distruzioni insomma impressionanti. Abbiamo visto quello che è successo nella seconda guerra mondiale con le bombe atomiche, con Hiroshima e Nagasaki. Però questo qui non toglie che da un punto di vista teorico noi non possiamo ignorare queste cose, perché il cristianesimo non è pacifista, non dimenticatelo questo qui, cioè Gesù è pacifico, non pacifista. Il pacifista è colui per il quale la pace è il bene assoluto, per cui in nome della pace la guerra è sempre, comunque, in ogni circostanza, in ogni luogo da condannare, quindi non può mai per nessun motivo essere utilizzata. Questo è impossibile metterlo in pratica, la lettera. È impossibile, perché in alcune circostanze ti esponi alla distruzione totale. Non si può, è un principio utopico. Ripeto, Dio non la benedice in quanto tale, però la guerra rientra in quelle categorie dei cosiddetti mali necessari. In alcune circostanze, da valutare con estremo rigore, ma che fai? Ecco. Questo però contrasta un po' con il Nuovo Testamento, no? Quando si parla di. Allora, il Nuovo Testamento, allora Gesù, attenzione, Gesù, sì. Allora, ripeto, un conto è il comportamento individuale che una persona ha di fronte a un male privato rivolto a lui. Gesù non dice: se ti invade una nazione, dai il benvenuto ai carri armati. Gesù dice: se a te uno ti percuote sulla guancia destra, porgi anche l'altra. Se uno ti spoglia dei vestiti, dagli pure il mantello. Ora, però, state attenti, questo è un fatto privato da gestire attraverso l'amore eroico, d'accordo? Quindi l'esercizio eroico della carità, che accetta di farsi carico delle conseguenze del male senza rispondere al male col male. Però vi ricordate cosa dice Gesù prima della passione? Non vi ricordate quando vi ho mandato a due senza niente, senza bisaccia, avevo mancato niente? Ma ora che ho una spada la prenda, perché deve compiersi in me la scrittura e fu annoverato tra i malfattori. Quindi non c'è una condanna assoluta di tutto questo. Quindi un conto è la dimensione privata, un conto è la dimensione, come dire, pubblico istituzionale. Quando ne va di mezzo la sopravvivenza di un popolo o di una istituzione, cioè guardate che chi vuole stare in Terra Santa, ci sono dei posti che tuttora oggi sono custoditi dai nostri fratelli musulmani. Da qualche tempo ti dici, ma prima non ti facevano entrare proprio. E nei posti dove sono custoditi, una delle volte in cui sono andato, per entrare paghi. perché ti ci vanno a entrare, ma se per esempio se le dico dell'ascensione chiudono, non ci entri. Quindi tu il luogo dove Gesù è sceso al cielo e dove ci sta anche l'impronta del suo piedino rimasta miracolosamente sulla pietra, non lo vedi. E dici, ma che cambia? Niente e qualcosa. Ecco. San Paolo scrive, San Pietro mi sembra, noi non è che siamo andati dietro a favole inventate nell'annunciarvi Gesù Cristo come nostro Salvatore, ma noi l'abbiamo visto con gli occhi nostri. Quindi la testimonianza storica è fondamentale e non si può tollerare che sia tolta totalmente, per questo era totalmente, senza neanche muovere un dito. Vi ripeto, è discutibile e lo si può discutere la modalità concreta con cui alcuni di questi episodi sono stati gestiti dai singoli condottieri e dai singoli squadroni che andavano concretamente a operare. Su questo non c'è nessun problema, ma questo non tocca il principio. Se tu c'è un generale scellerato, non significa che la guerra che era fatta e che ha fatto concretamente col generale non era da farsi. È che quel generale si è comportato male, ha fatto comportare male le sue truppe, va bene, e lo condanniamo per quello che ha fatto. San Bernardo ha predicato a lui la seconda crociata, I papi l'hanno indette, tutti quanti dannati, tutti quanti peccatori, non papi peccatori, alcuni papi che erano tutt'altro che peccatori, mica Alessandro VI ha indetto le crociate, insomma, quindi... Non dobbiamo noi essere su questo figli del semplicismo sciocco del nostro tempo. Ora, nel terzo capitolo, lo leggiamo rapidissimamente, perché abbiamo quasi finito il tempo, compare invece il grande Giuda Maccabeo. Al suo posto sorse il figlio di lui, Giuda chiamato Maccabeo, lo aiutavano tutti i suoi fratelli e quanti si erano legati al padre e conducevano la battaglia di Israele con entusiasmo. Egli accrebbe la gloria del suo popolo, rivestì la corazza come gigante, cinse l'armatura di guerra e sostenne battaglie difendendo il campo con la spada. Nelle sue gesta fu simile al leone, come leoncello ruggente sulla preda, inseguì gli iniqui braccandoli, perturbatori del popolo, distrusse con il fuoco. Gli iniqui sbigottirono per paura di lui, tutti i malfattori furono confusi e la salvezza per mezzo di lui ebbe buon esito. Inflisse amarezze a molti re, rallegrò con le sue gesta Giacobbe, sempre la sua memoria sarà benedetta. Percorse le città di Giuda e vi sterminò rinnegati e distolse l'ira da Israele. Divenne celebre fino all'estremità della terra e radunò coloro che erano dispersi. Apollonio radunò dei pagani un forte esercito della Samaria per combattere Israele. Giuda lo seppe e avanzò contro di lui, lo sconfisse e lo uccise. Molti caddero colpiti a morte e i superstiti fuggirono. Adesso i capitoli qui si succedono con tutta quanto una serie di imprese strepitose di Giuda. Possiamo leggere qualcosa, per esempio una sua espressione. E a un certo punto, quando videro lo schieramento avanzare dinanzi a loro, i nemici, disse alla Giuda: come faremo noi così pochi ad attaccare battaglie contro una moltitudine così forte? Oltretutto siamo rimasti oggi senza mangiare. Giuda rispose: non è impossibile che molti cadano in mano a pochi, e non c'è differenza per il cielo tra salvare per mezzo di molti e salvare per mezzo di pochi, perché la vittoria in guerra non dipende dalla moltitudine delle forze, ma è dal cielo che viene la forza. Costoro vengono contro di noi pieni di insolenza e di iniquità per eliminare noi, le nostre mogli, i nostri figli e saccheggiarci. Noi combattiamo per la nostra vita e per le nostre leggi. Sarà lui a stridolare davanti a noi. Voi dunque non temeteli. Se vi ricordate buona memoria, ricordatevi la battaglia di Davide contro Golia. Questo è un tema che ricorre. Quindi tutti quanti i capitoli che seguono sono un continuo susseguirsi delle imprese strepitose militari di Giuda Maccabeo, figlio di Mattatia, ripeto, uno dei più grandi generali di Israele. In particolare ci sono le vittorie di Giuda nella guerra di Emmaus contro Lisia, uno dei nuovi luogotenenti dei Seleucidi. E sempre in questo capitolo Giuda riesce a riconquistare il Tempio di Gerusalemme profanato, a purificarlo e a ridedicarlo. Capitolo 4. Poi nei capitoli 5 e 9 ci sono altre battaglie e vittorie di Giuda Maccabeo. C'è la morte di Antioco Epifane al sesto, il suo successore il primo Antioco V e poi del Medio I. E si vedono i generali Bacchide, Alcimo e Nicanore, e nel capitolo 8 c'è la prima alleanza dei giudei con i romani. Tenete presente che stiamo nel secondo secolo avanti Cristo, Roma stava all'apogeo della sua fase repubblicana e in fortissima espansione in tutta Europa. E poi Giuda Maccabeo muore e Gionata, che era un altro dei figli di Mattatia, gli succede e assume la carica di sommo sacerdote. Siamo negli anni dal 160 al 143, capitoli 9 e 12 del primo libro dei Maccabei. E infine il libro si chiude con Simone, sommo sacerdote ed etnarca dei giudei. Ecco, diciamo che terminate queste notazioni essenziali, i capitoli sono una sequenza, diciamo, di eventi politico-militari che si succedono in quegli anni, ecco, quindi fino a quando i giudei non riescono alla fine a riconquistare parte dell'indipendenza perduta. L'insegnamento di questo primo libro è appunto quello di cui abbiamo parlato, quindi a certe condizioni, in certi casi, in certi tempi, si può combattere anche in nome di Dio. Come capite che la guerra santa, per esempio, la differenza da questa è quella dei musulmani, è completamente differente, perché la guerra santa dei musulmani, sapete che cos'è? La guerra santa dei musulmani vuol dire che io in nome di Allah devo ci sono due possibili, devo andare a con le armi conquistare ad Allah tutti i popoli, nel senso che o diventi musulmano o t'ammazzo. Questa è la guerra santa, detta proprio in tre. Capite che è una cosa completamente differente dal concetto biblico della cosiddetta guerra santa. Però capite come succedono le tecniche, siccome adesso di guerra santa si parla soltanto in questo modo in mezzo agli islamici, appena nomi di guerra santa, oddio, però non è che è proprio così, noi dobbiamo anche essere un po', ci sono alcuni apologeti, grazie a Dio, cattolici, che specialmente dalle testate di alcune sante riviste mettono qualche puntino sugli e spiegano anche queste cose, perché noi non possiamo, ripeto, in questo fare i pappagalli dei galli che cantano a vanvero e che dicono un sacco di sciocchezze, un sacco di stupidaggini per gettare fango, insomma, contro la Chiesa e contro la sua storia. Noi non possiamo. Stessa cosa, adesso non c'entra niente, però in conclusione vale sull'Inquisizione, tutte le altre leggende nere, l'Inquisizione qui. Allora, se uno sa la storia, cioè molta della leggenda nera si sfata. Voi sapete che in quasi 700 anni di storia quante persone sono morte, pena di morte per il caso a causa del processo della Santa Inquisizione. Cioè l'Inquisizione è stata fondata definitivamente nel 1253, d'accordo? Ed è durata, anche se in forme diverse, fino a quando la congregazione della dottrina della fede si chiamava il Santo Uffizio, era ancora la Santa Inquisizione, insomma. Non arrivano a 100, in quasi 800 anni di storia. Cioè, uno, due, i casi di tortura, non mi ricordo adesso il numero preciso, ma stanno intorno ai 30 in 700 anni di storia. Voi dovete sapere che quando io studiavo giurisprudenza c'era un professore di procedura penale di sinistra e ateo, vi dico anche il nome, che è Cordero, che scrisse il manuale con storia del processo penale. Quando scrisse il manuale di storia del processo penale arrivò chiaramente nel capitolo del Medioevo con la nascita dell'Inquisizione. Uno comunista e ateo tesseva chiaramente le lodi della Santa Inquisizione. Queste sono cose che non si sanno in giro, perché quando nacque la Santa Inquisizione, la cosiddetta Santa Inquisizione, nacque in un contesto storico in cui un processo in senso stretto non c'era. c'erano i cosiddetti procedimenti sommari. Sapete cosa vuol dire un procedimento sommario? Che io mi sveglio la mattina e dico: Leonardo ha rubato a Simona, io l'ho visto. Ah sì? A morte. Non si sente, non c'è l'avvocato, Leonardo non può parlare, non si può difendere, lo ammazziamo subito. Allora, l'Inquisizione, sotto questo punto di vista, tenete presente che fino alla riforma del processo penale, perdonatemi se faccio queste digressioni giuridiche, che è avvenuta negli anni, quando io studiavo era entrato appena in vigore il nuovo codice di procedura penale, quindi siamo negli anni, alla fine degli anni 80, inizi degli anni 90, prima di questo il processo penale era fondato sul principio inquisitorio, cioè che era proprio preso pari passo dalla struttura del processo della Santa Inquisizione. Cioè, perché quando venne questa cosa fu la prima forma europea di processo degno di questo nome, cioè di un procedimento che prevedeva delle garanzie anche per l'imputato, la possibilità di difendersi, di essere ascoltato e di essere comunque messo in condizione di poter avere un processo regolarmente celebrato. Questo non esisteva da nessuna parte. Queste sono cose che non si dicono, si dice: la Santa Inquisizione ha ammazzato 100 miliardi di streghe, mandava la gente a rogo e torturava la gente, lo facevano i domenicani alla faccia del Vangelo, eccetera, eccetera. Questo è quello che noi tutti quanti abbiamo nella nostra testa, ma non è così. Che ci siano stati sicuramente dei casi singoli, sparuti, dove si sono state fatte delle cose che non si dovevano fare, lo possiamo concedere, ma questo, come prima, se c'è un giudice matto non vuol dire che il sistema non funziona e che è da condannare ipso facto. Cioè, capite? Anche alcune cose, dice, ma le streghe sono state mandate, non si doveva fare, però, santo cielo, quando noi giudichiamo un evento storico, tu lo devi contestualizzare, cioè è ovvio che per me oggi nel 2010 prendere una, e siccome ha fatto abracadabra, tipo una strega, gli do fuoco, è roba da matti, ma questo perché io oggi vivo nel 2010 dentro un contesto e dentro una mentalità precisa, ma io non posso prendere questa mentalità e giudicare con questa mentalità una cosa fatta nel 1600, non si può. Perché tu devi giudicare questa cosa cercando per quanto puoi, sulla base delle conoscenze che hai, di calare la tua testa dentro la mentalità del 1600, dove la medesima cosa, pur non perdendo, se vogliamo, la serietà e in alcune circostanze la gravità, però cioè, non è come vederla oggi. Non è come vederla oggi, ma è sempre una cosa da ricordare. Non è una cosa da dire, sono stati solo 100, per cui andare fino alla guerra, anche se era uno, insomma, che... sono stati solo 100 contro centinaia di migliaia. E la pena di morte, ma la pena di morte, adesso non si apre questo discorso, anche questa, non è assolutamente un male assoluto. Perché ad alcune condizioni, in alcune circostanze, la pena di morte può essere utilizzata come strumento penale. Anche questo c'è. Se lo dice Gesù. Se lo dice Gesù. Giovanni Paolo II su questo ha avuto delle affermazioni, anche queste bisogna contestualizzarle bene, dicendo, perché anche lì sulla pena di morte ci sono tanto una serie, quando è lecito allora, in alcune circostanze straordinarie e gravissime, quando non c'è altro sistema, quando si ritiene che dare un'esemplarità di questo genere possa essere l'unica o la più efficace soluzione deterrente per impedire i reati, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Giovanni Paolo II disse queste cose, che oggi nel 2000, alla luce di quello che si constata, non sembra che negli ordinamenti ci siano le condizioni concrete e contingenti tali da giustificare l'uso della pena di morte. Ma non fa un discorso, perché non può fare, anche se il Papa, un discorso in assoluto, perché se dicesse che è assolutamente parlando la pena di morte è sempre e comunque illegittima, fa conto 2000 anni di pensiero non proprio di questo genere. Ad alcune condizioni, in certi casi e in certi frangenti molto particolari che sono a discrezione. Anche oggi, ai tempi nostri. Ai tempi nostri Giovanni Paolo II ha detto che in base al suo autorevole e da ossequiare parere non sembra che ci siano le condizioni, però non è detto che non si debbano determinare, quindi cioè, siamo sempre in un contesto di questa vita terrena segnata dal male, ecco. Quindi poi la valutazione concreta della ricorrenza delle circostanze è la responsabilità che hanno nei singoli casi concreti chi ha compiti di governo e che devono essere scrupolosi nel valutarle, perché non si può fare il far west oppure la mattanza o la carneficina, ecco. Però un conto è di stringere molto e di dare dei criteri di valutazione molto stringenti, per cui prima di orientarti verso il positivo devi stare molto attento a quello che fai. Un conto è dire assolutamente sempre, dovunque e comunque no, perché anche in questo caso ti trovi in alcune situazioni che non puoi fare così, per esempio in guerra. Quindi non bisogna essere, cioè io anche sono caduto agli inizi della conversione in questo errore, dopo però ci hanno fatto pensare, io ho fatto anche l'obiettore di coscienza, mea culpa, ma io quando feci l'obiettore di coscienza lo feci mosso da un principio sbagliato, cioè io siccome sono convertito, sono cristiano, siccome c'è il Vangelo, a chi ti percuote, io non posso per nessun motivo fare uno di... Allora mi ricordo come se fossi ieri, mi trovai in una circostanza che non so perché uscì questo discorso con un carabiniere e mi disse: ah, allora io sono già dannato, sicuramente andrò all'inferno perché io ho la pistola e in alcune circostanze io devo sparare, che faccio? Ma io l'ho messo tutte le domeniche e questo mi diceva: orca vacca, dico, che facciamo? Cioè uno deve stare attento, deve stare voi sapete che ci stanno i cappellani militari, c'è un vescovo che è un ordinario militare. Allora, ci stanno i cappellani che fa dire la messa ai militari, se sparano sono tutti dannati, che gli dice la messa? E la Madonna del Rosario, la Regina delle Vittorie e la Battaglia di Lepanto, che facciamo? Facciamo venire tutti quanti i turchi in Europa e facciamo completamente radere al suolo tutto il cristianesimo? Non abbiamo combattuto noi con San Pio V che stava a pregare il Rosario, e la vittoria è attribuita alla Madonna che è chiamata Regina delle Vittorie. E se leggete gli inni greci, la Katistos, ave tu che sei colei che difende le mura dell'impero, cioè è la Madonna.